Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo e naturalmente anche da Silvia Barba. Buonasera Silvia. Buonasera, buonasera a te. Questo è il soundcheck di Radio 24, la prova del suono. Come sempre siete collegati con il Groovemaster Studio per una puntata dedicata questa domenica a jazz standards, ovvero le composizioni classiche del jazz, quelle sulle quali si sono formati i musicisti di jazz di tutte le generazioni. Che cosa sono i jazz standards? Composizioni che sono state scritte nel periodo classico, quello che va dal 1920 alla fine del 1930, da compositori come George Gershwin, Oggy Carmichael, Roger C. Hart, Irving Berlin, Cole Porter, composizioni che in molti casi facevano parte di musical, di opere che poi venivano presentate a Broadway. E queste composizioni col tempo sono diventate dei jazz standards, perché proprio i musicisti di jazz nelle loro jam session, ma anche nei loro repertori discografici, le utilizzavano per lasciarsi andare alle loro improvvisazioni. Ho raccontato in maniera semplice, che dici? Perfetto. È vero, sono delle composizioni che ormai fanno parte della tradizione. Tutti i musicisti che approcciano al jazz e non solo devono conoscerle. Ecco, e i musicisti di jazz devono conoscere in particolare alcune composizioni, perché così come è importante conoscere la forma e la struttura del blues in tutte le sue forme, perché non esiste un solo blues, poi a seconda del compositore il blues si è trasformato nel corso del tempo, bisogna conoscere anche alcuni jazz standards proprio per la loro originalità, non solo negli intervalli melodici, ma soprattutto nella forma e nella struttura e nelle progressioni armoniche. Quindi alcuni standards sono importanti per i musicisti di jazz, così come lo è il blues per tutti i musicisti contemporanei. Allora, direi di dare il via alla nostra puntata approfittando anche di alcune informazioni che abbiamo preso da un sito di riferimento che si chiama jazzstandards.com, un sito molto ben realizzato che ci dà la possibilità di conoscere le storie delle composizioni oltre a quelle proprio dei compositori. E direi di partire proprio col jazz standards numero uno, secondo una ipotetica classifica di questo sito, ovvero Body and Soul. Perché Body and Soul? Beh, innanzitutto perché al primo posto di questa classifica evidentemente è il brano davvero più suonato e più conosciuto. La musica è stata scritta da Johnny Green, le parole da Edward Hines, Robert Suhr, Frank Ayton, per un musical che si chiamava Three's a Crowd, composta nel 1930 e portata al successo ovviamente negli anni successivi. Una delle versioni più famose è quella di Louis Armstrong, però noi oggi facciamo sentire quella che veramente lo ha consacrato veramente come infatti, lo standard per eccellenza. Body and Soul diventa uno standard ancora oggi suonato durante i concerti, nelle jam session, soprattutto dai sassofonisti, perché proprio il sassofonista Coleman Hawkins nel 1939 realizza in studio questa sua versione, che poi è stata anche vocalizzata. L'assolo di Coleman Hawkins ha colpito talmente tanto la creatività dei musicisti che addirittura scrissero anche il testo sull'assolo di Coleman Hawkins. Eccolo qui, questa è la versione originale, Coleman Hawkins 1939, 11 ottobre, e naturalmente Body and Soul ad aprire questa puntata del soundcheck. E sì, nel sito di riferimento jazzstandards.com, Body and Soul è uno standard quotato addirittura come il numero uno, primo in posto. Classifica nel gradimento da parte dei musicisti e dagli appassionati di jazz. Sì, la puntata di questa sera del nostro soundcheck è dedicata a jazz standards, tanto per capire come fa una composizione a diventare col tempo uno standard del jazz. Beh, è talmente suonata, talmente riproposta nelle varie versioni dai musicisti che approcciano al genere, che diventa parte della tradizione popolare, direi. Chi è che non conosce Body and Soul, pur non essendo un jazzista? Cioè, il pubblico diventa davvero appartiene al pubblico che le ascolta, non solo ai musicisti che la suonano. Secondo ma me diventa uno standard, una quindi. Tua composizione diventa un jazz standards accreditato quando poi te la ritrovi in questo libro che certo. Si chiama Real Book, una sorta di Vangelo per i musicisti di jazz, perché il Real Book raccoglie gli standards più importanti e quindi per i musicisti la possibilità con questo libro nella borsa di poter partecipare a concerti, a jam session, improvvisando sulle progressioni armoniche riportate nel Real Book. Quello che tu vedi, mia cara Silvia, è il mio primo Vocal Real Book acquistato a New York, ormai non posso neanche dire quanti anni fa, però avrei notato che le pagine sono diventate una sorta di papiro. È un pezzo di modernariato ormai. Esatto, oggi esistono decine di Real Book, anche il Real Book latino, c'è cioè il Real Book anche di composizioni contemporanee, e tutto è raccolto poi in formato digitale in PDF, per cui uno basta che si porta dietro il computer, ma addirittura c'è l'applicazione esatto. Del Real Book che uno può scaricare sul telefonino o sull'iPad, anche se poi non sono riportate le melodie. Fammi la domanda, perché? Perché non sono riportate le melodie? Non sono riportate le melodie perché riportando le melodie bisognerebbe pagare diritti d'autore ai compositori. Invece sono segnate soltanto le progressioni armoniche e le strutture dei brani, e quindi la possibilità per i musicisti, conoscendo la melodia, di poter improvvisare su queste forme, su queste strutture. Andiamo avanti però col programma. Un'altra composizione che tutti i musicisti di jazz e soprattutto i cantanti devono conoscere è All of Me, uno standard che è stato scritto credo nel 1931, sì. Poi portato al successo dalle varie interpretazioni dei musicisti e dei cantanti. È vero, noi questa sera abbiamo scelto la versione bellissima di una grandissima vocalist che è Chaka Khan. Ecco, quindi una vocalist famosa nel soul, nell'R&B, che però ha realizzato un album di jazz spettacolare ormai più di una ventina di anni fa, addirittura con Chick Corea, Freddie Hubbard alla tromba, Joe Anderson al tenore, Stanley Clarke al contrabbasso, Lenny White alla batteria, quindi i migliori musicisti di quel periodo per Chaka Khan, che realizza così l'unico album di jazz vero e proprio della sua carriera. Però pensa, nel 1982, in piena musica anni 80, lei approccia agli standard jazz, è meraviglioso. E questo è ancora oggi un disco da possedere, insomma se sei un cantante di jazz ma anche un musicista non puoi non avere Echoes of an Era con Chaka Khan, che ci fa ascoltare la sua versione di All of Me qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Ecco un altro esempio di jazz standards riproposto nella versione contemporanea anni 90 in periodo easy jazz, dalla voce di Maisa Leak coinvolta dal pianista inglese Jason Ribello. E Summertime è proprio un esempio classico di jazz standards, una composizione di George Gershwin tratta da un musical famosissimo. Il musical è Porgy and Bess, che conteneva tra l'altro delle canzoni che poi sono diventate ancora famose, non solo Summertime, voglio dire I Love You Porgy l'hanno suonata anche, è diventata anch'esso un brano. Sì, poi c'era standard. Anche It Ain't Necessarily So, insomma c'erano esatto. Tante canzoni importanti in Porgy and Bess di George Gershwin. In sì. Questo musical era considerata una ninna nanna che si cantava ad una Summertime, sì. Allora, da Summertime continuiamo invece il nostro percorso alla ricerca di jazz standards importanti per i musicisti, ovvero composizioni sulle quali i musicisti di jazz si devono formare. Prima o poi capiterà di dover suonare queste composizioni. E un altro classico importante nella storia del jazz per le sue progressioni armoniche, per la sua struttura, è una canzone scritta da un signore chiamato Joseph Cosma. E questa canzone, che aveva in origine un titolo francese, poi col tempo è diventata Autumn Leaves dopo la versione del testo scritto in inglese, ma senz'altro Silvia ci puoi raccontare nei dettagli come stanno le cose per Autumn Leaves, quindi le foglie morte per intenderci. Esatto, Le Feuilles Mortes è del 1946, è tratto da appunto un film, questa volta Les Portes de la Nuit, e un film che ha poi reso famosa questa versione che era stato il cui testo era stato scritto sia in francese che in inglese. Ecco, la versione francese la scrisse, mi pare, Jacques Prévert, giusto? Esatto, Jacques Prévert, infatti, è considerato appunto l'autore del testo francese. Invece, poi la versione inglese è scritta da Johnny Mercer nel 1949, portò Autumn Leaves al successo internazionale. Esatto, noi abbiamo scelto la versione. Chi è che non ha suonato Autumn Leaves? No. Dai, dimmelo. Ecco, però poi diventa uno standard di jazz contemporaneo dopo questa registrazione. Vi sto parlando del 1958, due campioni, anzi Julian Conobal Adderley, con una formazione eccezionale, ha anche il coraggio di invitare in studio di registrazione Miles Davis per realizzare con Hank Jones al pianoforte, Sam Jones al contrabbasso e Herb Blakey alla batteria questa versione di Autumn Leaves celebre, 11 minuti di grande musica. Ascolteremo quello che possiamo. Eccolo qui, Conobal Adderley con Miles Davis al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eh sì, è quello che fanno i musicisti di jazz, a volte tendono a nasconderle le melodie, ma avrete riconosciuto, perlomeno le orecchie attente dei veri appassionati di jazz, il tema di Stella by Starlight nella versione contemporanea del pianista Robert Glasper. Questo tanto per farvi capire che anche i musicisti della nuova generazione si cimentano ancora oggi con jazz standards di stampo classico. Che cosa sappiamo di Stella by Starlight? Beh, questo è un brano scritto da Victor Young e appunto compariva in un film nel 1944 che si chiama The Uninvited, una ghost story particolare. Era stata definita una serenata caratterizzata appunto da però un qualcosa di inquietante e non fu facile scrivere il testo successivamente. Ed è una composizione importante per i musicisti proprio per la costruzione armonica, e infatti non è facile improvvisare su Stella by Starlight. Puoi anche improvvisare bene sul blues, ma su Stella by Starlight naturalmente ecco, devi studiare, diciamoci la verità, devi studiare per poter improvvisare su Stella by Starlight. Mia cara Silvia, siamo arrivati praticamente agli sgoccioli, peccato perché potremmo andare avanti ore e ore parlando di jazz standards, magari lo rifacciamo. Io direi domenica prossima possiamo raccontare alcuni jazz standards contemporanei e poi naturalmente fare il capitolo oppure l'episodio 3, 4, 5, possiamo andare avanti fino alla fine della stagione con jazz standards, ma chiudiamo con una composizione bellissima scritta da Hoagy Carmichael, composizione intitolata Stardust. Anche qui questa sera sentiamo non una versione classica, ma una versione contemporanea affidata al sassofonista Joshua Redman, con Brad Mehldau che poi ha arrangiato questo album bellissimo intitolato Walking Shadows, una delle ultime fatiche discografiche a nome di Joshua Redman, e ha anche arrangiato tutto l'organico. Ma Stardust di Hoagy Carmichael che cosa nasconde poi fra i suoi segreti? Allora, è nata come una canzone quasi pop. Ci credi? Ci crederesti mai? Ci credo, perché la leggenda no? Vuole che Carmichael l'abbia scritta tutta ad un fiato un giorno visitando la sua vecchia università e ripensando ai bei momenti di quel periodo. La realtà invece è che affermano che abbia avuto una gestazione molto più lunga e più articolata, fatta di vari tentativi. Nasce come Stardust, poi invece l'hanno edita con il titolo Tutto attaccato. Tutto attaccato. Allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su Radio 24 per il Soundcheck. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Silvia Barba e Giorgia Telespo. Ciao.